Uli, Uli, Uli. Massimiliano, Luigi, sarà le 47 dovrebbe essere. Io sono sceso a fare delle prove qua un attimino, no, non volevo disturbare là. E perché se ne sono andati lì, non ho capito, Sono stato in un cazzo, non so più intendere nessuno, ma alla fine cazzo mi deve essere un po' giusto. Hola, attenzione, binario 10, Gabi. C'è qualcuno qua? C'è qualcuno qua? Sì, ci sono io. Oh, ciao qua. Ti ho chiamato poco fa. No, ce ne avete già andati via. Mi sono assentato. Io facevo il controllo di Massimiliano, poi sono uscito. Non sono rientrato, stavo ascoltando. Ce li ho chiamati, non ce l'avete più. E Marco ha detto che andava a mangiare, ma non si è fatto più sentire. Ho entrato Uranio, ho fatto due chiacchiere con lui, poi sono andato a portare il cane, mi sono arrivato 10 minuti fa. E cappa, va bene. Hai visto la foto che ha mandato dell'allevamento nuovo? No, non ho visto nulla perché quel telefono è sempre spento, capito? Ehi, ehi, l'allevamento che abbiamo fatto di bulldog. L'allevamento di bulldog? Certo che sì. Ho fatto uno stock di 5. 5. Le femmine sono due maschi. Abbiamo fatto già il finito il quello impegnato, capito? Non stavo entrando ieri avanti. Abbiamo fatto già il recinto, ho fatto un altro. Ho mandato anche la foto, poi ce n'è uno bianco alla fine del mondo. E adesso accendo il telefono e guardo. Dammi il telefono. Ehi, l'allenamento saranno cuccioli. Ehi, cuccioli di un mese sono. Ma la però peso grassi. Vedi, è un pedigree tutto. 5.000 euro, 1.000 euro l'uno. 5, 3 femmine, 2 maschi. Adesso facciamo la 9, non le momento, le siamo con quelli. E mia figlia con il ragazzo, io, 3. Belli sono, Ma belli la taglia che abbiamo presi. Tutti 5 insieme. Ma sono di quelli come Filippo oppure di quelli normali? No, questi sono razza normale, non ce n'è neanche uno fuori taglia, questi sono taglia normale, quindi. Diventano appena più grandi di come sono, di come li vedi adesso. Ma c'è quello bianco, se lo vedi dal vivo è la fine del mondo. E adesso ho acceso il telefono e guarda, bellissimi sono, molto belli. Cosa sono, regalo? No, allevamento. Ma io non so cosa fare, compresso. Poi da dici, tutti e 5 un paio. Tutti e 5 assieme. L'avemmo? No. Vabbè, si vedrà, capisci a me, l'avremo. In famiglia è, capito? Sono già lì a Ossi, hanno già fatto il coso. Vedi, è tutte e 5. 1.000 euro l'uno, 5.000 euro, 5. 3 femmine e 2 maschi, capito? Adesso vuoi fare l'allevamento, facciamo l'allevamento. invece nel piccolo qua. Già pensi che no, non mi tocca pure a me la barca mia. Lascia perdere. APK, fate, fate, la cosa bella. Allora. E già. Domani, una ditta c'è scoperto, salire, la usci. E ce la fare, invece di noi, ce la fare la tettoia, tutto, chiudere, capito? Grande lì, bello. Quel posto sarà 6 metri per 3, è una cosa del genere, 6 per 3, 6 per 4. Sì, a voglia ci stanno. No, lui loro fanno tutti questi cucciucciati, tutti questi, tutto chiuso. E in attesa che sia finito, va. E poi li metto dall'altra parte. E vabbè, voglio che ti dica. Ma vista la foto, belli sono, ti piacciono. Belli, belli. Belli, belli, belli. C'è quello bianco, è bellissimo. Tutto coperto sul bianco. Se non ti piglia Filippo, usci quasi la guaglia e tu me ne dai uno minore. Sì, sì. Adesso come le viene il calore la faccio accoppiare. La tua? No, sono cucciolata di un suo amico di... Dai, abita a Vistano, ma è Cagliaritano. Lì stava vendendo tutti in blocco. Tutti assieme, 1.000 euro l'uno. E ho già fatto un giro di conti. Tira fuori il doppio, tranquillo che tira fuori il doppio. Sì, ha voglia. Niente, sì, vabbè, vedi la voglia come fa. Beh, ma per fare a poco, quindi già mi gioco la sera, non c'è problema. E poi se tu consigli Filippo, veramente tutto è costato 1.700, quasi 1.800 euro. Sì, cosa vuoi sia, povero non fuma. Infatti è non fuma, fuma e non vivi. Se l'avevo dovuto pagare io che fumo al bingo è diverso. E infatti, è quello. È un appassionato di te. Non so cosa sia ordinato adesso. Guardatelo bene. Un'Asia centrale, l'ha già presa Canaria che pesa 70 kg. L'Asia centrale da grande pesa intorno a 90 kg. 85-90 kg. Ho detto, ma dove se ne vai? Io sono appassionato di cani e di razza. Vabbè. Mi raccomando, fai la campagna, usci, fai un canile, invece muni nome e cognome, poi canile municipale. Infatti, ti portano via non tantissimo tempo, però non li ho curati un bel, capito? E io le imparavo in mobile. Che si può stare un bel idea. Dopo guardarti in Asia centrale cosa costa e quanto è grande, è anche un San Bernardo, ma cosa mi fai? Cosa mi fai? Adesso ho preso questa cucciolata, capito? E poi in giro un paio di mesi sono tutti venduti, va bene? Va bene, mi ripo tu. Un buon gol in mezzo a Ringozzi, li lasci. Sì, claro, non tutti hanno tutti quei soldi a spendere. Capito? Ma che razza è questa? Media? No, questa è proprio, sono bulldog inglesi, sia le tre femminucce che due maschietti sono normali, razza normale, capito? Sotto a Filippo passano i no, non è problema. No, questi non sono inglesi, capito? Mali. Questi tre che vedo io non sono inglesi. Non sono inglesi, io sono la francese, io. Tutti e cinque bulldog inglesi sono, non li vedi? No, mi stavo confondendo con la francese, no? No, la francese c'ha le orecchie dritte come la tua, quasi media. Capito, come il teacher che c'è tu, non mi piace quello che è francese, che è da piccolo per un solo, guarda le c'è dritti, dritti, dritti. No, questi sono cinque bulldog inglesi. Figurati che, infatti, ho detto, mandami la foto del padre, il padre è stesso colore, uguale, preciso, identico a Filippo, infatti se ne guardi, ce n'è uno che è macchiato in faccia, è bianco e marrone. Infatti quello è quello più simpatico. Sono piccoli, hanno un mese e qualche giorno, ma bene tanto sono grassi. Sì, infatti. Però è bella anche questa tutta bianca in piedi, eh? Sì, quella ti ho detto, guarda quella bianca, alla fine mo se la vedi dal vivo, lo sai che è tenerona, dice femmina. Subito si mette, si avvicina, ma già stanno in piedi, si aggrappano, hanno già una forza allucinante. Belli sono. Adesso, se si incommania, giù. Allora, 4 sacchi di trainer, mini, noi, eh? sentito un microfono. No, no, si sciuga. Allucinante, per carità. Ma vabbè, lui è così. No, ha avuto un mezzo attacco di aria comunque, perché insomma, mettere una cosa del genere, già c'è poco tempo, e butto pure per il sud. Allora, ti senti mezzo ripresi, mi raccomando, finiti di tutto, usci, domani a finiti ragazzi. È un casino. E vabbè, quasi che magari adesso ne tolga il doppio, non so, ma non se ne tiene neanche uno? Sì, una coppia se ne tiene, no, c'è una femmina, si tiene. Gli altri, oh Mario, ma hai detto mi fa, lui 3D mi telefona e già non ce li ho più. Io entro alla zona e poi c'è un sacco di amici, proprio lui fa le manifestazioni dei cani, capito, ha già preparato tutte le foto, siamo tutti per i grigi, tutta la documentazione. Comenti, mi sembra che sia, noi ne usciamo, sì, fine mese mi pare, a metà mese c'è una gara, una Ralghera, una Buritano, vorrei vedere che li coppone subito perché c'è gente da fuori, capito? Soprattutto quando fanno le gare, sono molti bulldog inglesi, francesi, pincher come il tuo, tipo quello che c'ha Gianni, capito? Lui conosce tutti questi, queste persone, quindi sicuramente Roma Cudu ci rivendi. Beh, almeno a recuperare qualcosa, no? Sì, non rivendi mille, no? Minimo vendi 1.500, 1.800. Che c'è? Avanti. Buonasera, buonasera. Ce n'è una anche a Porto Torres domenica di gara. Quella è per Cipito, Gianni. No, non è per Cipito, sono cani con pedigree, eccetera, eccetera. Perché partecipa anche un amico mio. Se ha un cane pastore stesso, l'ha pagato 3.000 euro, il figlio di campione. Sì, campione di un romolo, già. A saperlo. Sto parlando di gare internazionali, non gare di città. Parlando di gare internazionali, io. Gare internazionali, sai cosa vuol dire? Gare internazionali. Ci ho già partecipato due volte io a Porto Torres e a Larghero, sono gare così organizzate da gruppi privati, capito? Non sto parlando, quella di Oristano è una gara internazionale, c'è tutta l'Italia che partecipa, capito? Quindi io dico gare per Cipitura, non che ci siano cani che non sono all'altezza, ci sono cani belli e cani però. Non sono gare internazionali come doveva Mario, capito? Assolutamente. Sull'iscrizione ci paga 250 euro, quindi. Vedi te. Dove sei che ti sento basso? Direi sotto. Guarda, ha sentito il figlio di Hannibal, il cane di quel mio amico. L'ha pagato 3.000 euro, l'ha preso da fuori, non l'ha preso qua. Ha fatto le teste, se vedi che razza di groppa acciata di assetto dietro, allucinante, bellissimo. Ma 3.000 euro non l'abbiamo mai speso qua un cane, oh? Mario ne ha speso 5, se vuoi ti mando la foto. Ne ha speso 5.000 ieri, quindi. Ha preso 5 bulldog inglesi di un mese, figurati tu, lo farà al momento. Già, con tutta. Allora, nelle gare che ho partecipato io, ho visto partecipare, che ha partecipato Mario, di pastore tedesco non li ha vinto mai neanche uno, nulla, niente, nulla, niente di niente, bellissimi ma non ne hanno mai vinto neanche una, ripeto, di gare a livello nazionale, ok? Non ho sempre vinto i Labrador, Labrador bellissimi, due volte due di bulldog inglese, lui una volta ha vinto quello che c'hai tu, e un'altra volta, perlomeno quelle che ho visto io, un pitbull bellissimo, ma bello, bello, bello, bello veramente. Fattori tedeschi partecipano, sono tutti bumbosi qui e là, non hanno mai vinto già, mai. E vabbè, magari non erano gare specifiche per piccare. Comunque questo qui è il figlio di Hannibal, vai a guardare chi è Hannibal e poi mi dà la risposta. Il figlio di Hannibal è uno dei cani che ha vinto gare nazionali, internazionali, eccetera, eccetera. Quindi per quello l'ha pagato così. con pedigree e tutto, infatti vado a fare il servizio fotografico domenica. Oh, io vi lascio un secondo, Massimiliano, sono qua. Ehi, a Gianni, sarà figliolo di Hannibal, ma non è Hannibal, capito? Non è Hannibal, perché non c'è niente da fare. I figli di altri cani non escono mai come i padri, come i genitori, capito? Assolutamente, questo non è detto da me, ma è detto da maestri e da addestratori. Vogliono anni di sacrifici prima che un cane arrivi ad avere l'addestramento che ha avuto il genitore, perché erano anche altri tempi, era più sereno, tranquillo. Adesso sono molto meno tranquilli i cani, per mille motivi, per il periodo, per il tempo, per come vivono, per come mangiano, per come, capito, si muovono. È così. Comunque, no, io ce l'ho, Mario deve portare a Filippo, facciamo solo l'Istrano, perché solo per l'Istrano ci vogliono 250 euro di iscrizione, quindi perciò non ce n'è nessuno da buttare. 5 ne ha preso, già ti mando la foto, 5 bulldog inglesi, uno stock da Cagliari, 3 femmine e 2 maschi, in un mese, 1000 euro l'uno, allora divenne minimo a 2000. Che casa tua rimette? No, sono già da loro, Ossi. Ah, Ossi l'ha portato, chi li cura? Come chi li cura? Non c'è lui, c'è tutti i giorni lui che li cura, c'è già il tetto del giardino fatto, l'ha fatto mattonare, capito, tutto pavimentato, per il momento rimangono lì, ma intanto io penso che li porti a questa mostra a fine mese, perché ha già comprato anche tutti i trasportini, uno per ognuno, quindi lui ha di due, capito, li porterà sicuramente a questa mostra all'Istrano, ho paura che i 5 ne torneranno 2 sicuramente, perché lui riconosce tutti quelli, capito? Quindi sicuramente si riprendono almeno 2 o 3 se li portano via. Se ne dovrà tenere uno solo, perché farli accoppiare tra consanguinei non farli. Oh vabbè, è Natalie, non è quello il problema, però se c'hai un maschio e una femmina, chi c'ha il maschio le dai la femmina, chi c'ha la femmina le dai il maschio, capito? E puoi guadagnare lì, capito? Così mi, attenzione a non farli accoppiare tra fratelli. No, non si accoppiano, assolutamente. Cioè, Filippo è vissuto, allora a me me l'ha dato, me l'ha mandato che aveva 4 mesi, 5 mesi e mezzo, quasi 6 mesi, capito? Viveva con gli altri cani, uguale a lui, e ce n'erano 3 di femmine e non ha mai avuto problemi, capito? Erano praticamente le sorelle, beh. Ma ti mando la foto già, guarda che belle che sono. Ai mamma mia, la per la vita che la pigliamo pure io. Eri, cosa sei fatto? Nulla. Ce la facciamo uno scudo. Lascia l'Italia, carino, che è sposato, lascialo stare. Sì, io già lo sai che sono presso la sigla. Ho capito, non ti sto dicendo quello. Allora, adesso ti rimando. Adesso ti rimando, già, guardate di me, ma guarda, fine del mondo so. Oh già, però mi devo vestire, perché sono in disabili. Vieni nudo, io ti voglio nudo. Beh, almeno le calze a rete non me le fai mettere. Da caspillo, io sono al quadrato adesso. Già, vai da canto, sono grassi. Sono arrivato qua. Ma grassi, bravo, pesce Maria, caraca. Cisci. Arrivato via già. Ancora no, Claudio. Me l'hai mandato, io non ne penso. Infatti non l'hai ricevuto ancora. È un baffo solo. Ho i messaggi degli amici miei, tranne. Non so che dire. Ho le mani. chiamato il numero sbagliato. Scusi che l'ha mandato a me. Nel doppio rum c'è scritto, e anche la bottiglia del rum, capito? Non si può sbagliare. Non c'è un buffo solo, ho sentito una ombra, non c'è il segnale, non lo so. C'è il segnale? È solo al quadrato, sono solo l'ombra al quadrato, ma è strano. Non è la prima volta. Vediamo, te lo rimando. Lo puoi rimandare, però ci vuole il tempo, perché l'altro giorno io ho mandato un messaggio a Liliana ed era una cosa urgente, la ricevuta alle 11, l'ho mandata alle 9, la ricevuta alle 11, e con, non l'ha fatta anche vedere, non è che l'altro giorno dovrebbe essere che c'era traffico, cose, cose, era una cosa urgente perché dovevo andare a casa, fare un lavoro, ci vuole valire, non c'è nessuno. L'ho rimandato, però c'è sempre un baffo. Io qua c'ho, sono al campo pieno, 58, 68, 78%. Vabbè, comunque già ti arrivi, se te l'ho mandato già ti arrivo. No, ti arrivo guarda. Sono qua, bellissimo. Massimiliano, ci sei? Una fottinuta a noi della, di quello che stai ricevendo e non trattare nel canale 10 per favore. Sono 63, io li chiami della France di Nord del Portogallo, SL. Portogallo che ascolti la Sardegna Italia, cambio! No, capo, mi hermano per l'Italia, Nord del Portogallo. Calugio! E questo è Macaluccio. Macaluccio, Macaluccio, lui è. Attento Macaluccio, Mario. Papa capo, abbiamo sentito molto nulla per l'Italia, super Roger, mio hermano, con la chitarra in mano, la fede positiva, cambio. Con la chitarra in mano, meno male che tu c'è sempre la chitarra in mano, vai Gianni. Perché sono un italiano vero. Ver chi canta la canzone, lasciatemi cantare. Papa, super Roger, Macalur, come va? E fra di capo e ciò, e ciò Mario. Lo so, lasciatemi cantare, non c'è più quello, è muerto, è muerto. Numero uno della canzone, capito? Numero primo della canzone con la chitarrita e la muchacha, cambio. Lasciatemi cantare. Italiana, mi gusta Macanudo. Sala muchacha, mi gusta tu. Come sta lo tempo? Caldo, caldo, la temperatura. Caldo, caldo c'è Mario. Caldo, caldo. Si sta bene a quest'ora. Adesso c'è fresco, capito mi hai? Saluta. No, mi senta a me. Toccato il pinocchio. No, mi sono sganciato. Ciao Mario. Non mi intendi. Ah, già ti sente. Mario, guarda che c'è il bulldozer. Ma di là fa, se no, come ti chiamo il nostro lui? E rendimi, non ti diciamo. Come mi chiamo io? Io sono Claudio Lo Sparviero. Mario, Claudio Lo Sparviero. Capito mi hai? Passando stai. Non mi ha dato risposta. Passo o non passo? Non è che tu gli dici cosa concedi? Di sì, se sono già al piatto mi dovevo vestire. Sto scendendo, va. Ciao. Ok, mi faccio trovare giù, va, ciao. Vabbè lì. Italiano, italiano molto. Mi te buio, ma so Luigi. Ah, non lo so come cacco senti. No, Natali non ti ha risposto. No, non ho sentito. Natali. Oh, yeah. Ma ho sentito che l'altro giorno stavate modulando una cosa. A Palermo, a Reggio Calabria, un tipo arrivava un bel forte. Ma che lui? No, negativo, sto chiedendo. Grazie. Siete collegato, due Gianni, mi sembra, no? Buono, mi lamento, cosa... Tanto io non ne sto facendo di ex, non me ne sbatte nulla. Vabbè, va che devo uscire. Sì, allora mi arrivi Gianni. Vabbè. fungassaio. Ciao Mario, ascolti Bulldozer, Mario. Capo, capo Bulldozer, vieni San Vito, sempre preso, amico mio. Ma caduti, ciao Mario, buona estate, 7351 a te, a tua rea familiare. Cos'è che mangi di buono stanotte, il ristorante? Capo, capo, buonasera, Bulldozer. Saluto a Daniele e saluto a tutti gli amici della Sarda, la Sarda. Della Sarda, a più tarda, a prossimo. Ah Mario, un abbraccio, 5351, a te correa familiare, ci sentiamo, buon fine settimana, ciao ciao. Bravo capo, forte abbraccio circolare per te e tutto bene, ciao, a più tarda, a più tarda. Ciao Mario, ciao, amo Gianfredda, ci sentiamo, ciao. Ciao, amico mio, ciao, alla prossima. APK, positivo, dai dai. Ehi, ehi, dove state andando di bello, Gianni Doppio? In giardino. A farci un giro. No, adesso sta bene, col tuo cane, poco fa, sta benissimo, alla grande. Alla grande, bene, vado a te il messaggio. E io dopo guarda. Tu Massimi ti ha mangiato, mi sta chiamando a andare a cenare, tu ti ha mangiato? Ah, cosa ha mangiato? Mi devo ancora, no? Okay. Vai, mangia, vai, non ci sono problemi. Vado, no, va bene, questo va bene un quadro. Io ho il gioco che prima di preparare, ma chi non è rientrata la truppa ancora? E non va a fare neanche. No, tutti in chiesa a fare niente. K, ciao Claudio, buona cena, un abbraccio, un saluto al cuore familiare, ci sentiamo, ciao. Ciao Massimi, e io la truppa per la domani, domani per la finale, e quindi siamo tutti qua. Inizia volontà e vino a Fiasconi. Dai, ciao, saluta Daniela, un bacio a Gaia, saluta Gavino, Tonina, saluta a tutti. Ci sentiamo, dai, ciao Giannetto, buona passeggiata, ciao anche a Natalino, sia l'ascolto, Concetta, tutti, dai, vado a cenare, ciao. Ciao Massimiliano, ciao a te, Claudio, buona cena, dai, un po' di quanto stai andando? Non lo so, lui li ha pagati a 1000, perché ti ripeto, era una cosa e questo se ne doveva disfare. Quindi non lo so a quanto e vabbè li prende, capito? Sono tutti pellegrini, tutti certificati, libretti già sanitari, sono già vaccinati, sterminati, tutti pronti. No, perché se magari capita chiedo, io già lo prenderei, ma se avessi solo il posto, io dovrei avere una casa in campagna per la passione che ho, perché l'avrei fatto davvero allevare. Già, ma lo sì, se avessi appassionato anche tu. Sono mia pipì, sono sia arrivo minore. Va bene, dai, se senti qualcosa fammi sapere, se no si è già venduti a chi dice un po' ridurani. Babbo, dai, ci sentiamo, ciao di nuovo a tutti. Ciao, ci sentiamo. Ciao Massimi, stai sereno, Non bere troppo stanotte. Sì, vado al rubinetto per me. Io mi ero giubilato la voce, lo levo, non ci siamo mai, capito? Sì, va dove? Oggi ci tocca acqua dal rubinetto, domani forse, una bottiglia di birra ce l'hanno, ma forse però non lo so. Io vabbè, dicevo che non ci vede nessuno quello che mangiamo e beviamo, ho detto già miglia in gomma le possiamo andare. Ora che sono libero domenica e quindi ci sentiamo, ci prendiamo il caffè, non capite? Positivo, va. Io vado a mangiare, mica già nel piatto, cazzo, io a casa a Bosighi. Ciao! Boh, ci può la Bosighi, Ruggero, manco un fuoco, io vado a tirare in mio paese. Vai! Vado, ciao, passo e chiudo. Ah, non chiudo, passo e basta. Passo! Basta, quindi, uno dice, tu che parlate, è un po' di casino. Vai, mangia, vai, che è la cosa più bella, vai, che lo dico, cambio. Passo. Passo, ok, mi ha chiesto. Che cazzo hai mangiato, vuoi il butto a mangiare? Positivo. Gianni è arrivato e si è appena Natalino. Ma si può un solo Luciani, però non se non mi ascolta a me. Sono Brando, Massimiliano, sì, se l'ho preso, dai. Pensavo che non mi sentivi, capito? Infatti ci ho detto, boh, se non sei mezzo soldo, boh. A me, mi senti? Massimiliano. Ma mi senti o non mi senti? Che l'attarino che è il gol lecca lecca. Allora andare lecca lecca, io l'attarino, vado buon pa. C'ho buon pa? E io vado buon pa. Rullare sotto, no? Sì, però c'è l'eco troppo alto, devi abbassarlo. Non sono abituato con questo qui, non è mio. E vabbè, dire io a Gianni, allora qual è il pomello dell'eco e abbassalo appena appena. Guarda un po'. E adesso va bene. Ragazzi. Andiamo bene, vera, dai. Andiamo. Parrogero, avanti Macanovo, si ascolti ancora la Sardegna. C'è un po' di propagazione. Preso mia, i gatta. Signori, io vi saluto, vi lascio. Buon divertimento, buon fine di serata e ci sentiamo le prossimine.